Probabilmente il PC, dandogli un ruolo pubblico, voleva porla nelle condizioni di terminare la loro attività clandestina antifascista. Dirà infatti un membro della Volante Rossa nel 1977: «Nelle riunioni di partito ci scontravamo spesso con quei compagni che battevano solo sull'aspetto della lotta politica parlamentare, perché noi pensavamo che si doveva essere pronti a rintuzzare qualsiasi attacco e a fare la rivoluzione se fosse stato necessario». E poi ancora: «Però l'uscita della Volante Rossa sulla piazza, il suo scoprirsi, è stato anche la sua condanna a morte. In quel periodo non solo comunisti e fascisti si organizzano con formazioni paramilitari, la prefettura segnala varie formazioni armate, una democristiana facente capo ai Boy Scout e all'avanguardia giovanile cattolica, organizzata dai gesuiti e dall'onorevole Tupini, una facente capo all'Armata Italiana di Liberazione, guidati dal maggiore dei granatieri Carnevale, infine una neonata organizzazione dei socialdemocratici, e c'erano anche formazioni paramilitari dell'uomo qualunque». Ed ora ascoltiamoci Fischia il vento nell'esecuzione del duo di Piadena. Il 25 settembre i fascisti realizzarono un attentato contro la Federazione Comunista Milanese. Vengono posizionati ben 10 cariche di tritolo, di cui però solo una esplode. Verranno poi arrestati per questo 26 appartenenti al movimento sociale. Il 4 ottobre 1947, con un ordine del giorno congiunto, partiti e associazioni di sinistra chiedono lo scioglimento dell'Armata Italiana di Liberazione e del Movimento Sociale Italiano, in quanto organizzazioni armate. A Milano, l'11 ottobre, un gruppo di manifestanti, guidato dalla Volante Rossa, devasta la sede del Movimento Sociale. Il segretario e 5 iscritti finiscono all'ospedale. La polizia ferma 2 operai di Sesto San Giovanni, presenti all'assalto, ma gli operai di Sesto, a bordo di camion, si recano in massa davanti alla questura e ottengono il rilascio dei 2 arrestati. Il 29 ottobre, durante uno sciopero generale di 3 ore indetto dalla Camera del Lavoro, Giulio Paggio arringa la folla in Piazza Duomo, dicendo di voler dare una lezione a quelli del giornale fascista Il Meridiano d'Italia. 300 operai seguono gli uomini della Volante Rossa fino alla redazione del giornale, prendendola d'assalto. Circa 25 di loro, armati di rivoltella e di randelli, salgono al primo piano. Dopo aver sparato alcuni colpi di pistola contro il muro esterno, forzano la porta d'ingresso e distruggono tutto. La notte tra il 3 e il 4 novembre alcuni compagni sono riuniti nella Casa del Popolo di via Andrea del Sarto, da cui provengono tra l'altro alcuni della Volante Rossa. Sentono degli spari ed escono. Non trovano nulla e rientrano. Esplode allora una bomba di fronte al portone. La sera del giorno dopo, 6 membri della Volante Rossa si presentano a casa di Ferruccio Gatti, responsabile milanese del Movimento Sociale Italiano e dei Fasci di Azione Rivoluzionaria. Gatti era stato anche il capo degli squadristi milanesi nel 1921 e generale comandante della milizia fascista a Milano durante la Repubblica Sociale. Dopo la liberazione è stato arrestato e processato e condannato a 8 anni e 4 mesi. Viene poi assolto dalla Cassazione. Gli uomini della Volante Rossa gli sparano 3 colpi di pistola. Gatti morirà in ospedale il 13 novembre. Nel 1949, nel corso delle indagini sulla Volante Rossa, Paggio, Biadigo, Sante Marchesi e Dante Vecchio saranno incriminati. Il 5 novembre, a Sesto San Giovanni, 2 giovani si presentano alla porta del ragioniere Michele Petruccelli, appartenente all'Uomo Qualunque, e gli intimano di uscire. Petruccelli rifiuta. Allora uno dei giovani estrae una pistola e gli esplode contro 3 colpi, uccidendolo. A poche ore dall'uccisione di Gatti e Petruccelli, 3 individui sparano alcuni colpi di pistola contro la Casa del Popolo di via Tabacchi. Il 9 novembre, un gruppo di giovani comunisti, mentre attraversano il ponte del Lambro per andare a Mediglia, sono fatti oggetto di colpi di pistola e 3 vengono feriti. Durante la manifestazione di protesta l'11 di novembre viene linciato Giorgio Magenes, qualunquista, responsabile della sparatoria sul ponte Lambro, dopo che aveva sparato contro i dimostranti che assediavano la sua cascina, uccidendo l'operaio della Breda, Domenico Gaiotti. Alla manifestazione partecipò la Volante Rossa. Il giorno dopo vengono affissi ai portoni di varie case di Sesto San Giovanni dei cartelli con indicati gli inquilini fascisti. Il 28 novembre il Ministero degli Interni annuncia che il prefetto di Milano, Troilo, designato dal CLN, il Comitato di Liberazione Nazionale, verrà sostituito. Troilo è molto popolare a Milano, è un ex comandante partigiano. Nel pomeriggio 5.000 tra partigiani, reduci e combattenti bloccano armati Corso Monforte, sede della prefettura. Nuclei di partigiani armati iniziano il controllo dei documenti. È presente anche la Volante Rossa. La prefettura viene occupata da un comitato cittadino che ha assunto i poteri prefettizi. viene proclamato uno sciopero generale di 12 ore. Viene occupata la prefettura. Nel pomeriggio un gruppo di partigiani irrompe nella sede RAI in corso Sempione per trasmettere un comunicato, mentre un centinaio di dimostranti prende d'assalto la sede missina di via Santa Radegonda. Altri 50 a bordo di un autocarro tentano di devastare la sede del Mattino d'Italia, ma vengono respinti dalla polizia. Paietta, dirigente comunista, chiama al telefono Togliatti e gli dice: «Abbiamo una prefettura!» Il segretario del PC risponde: «Bravo, e adesso che te ne fai?» E lo gela. Si giungerà ad un accordo. Troilo rimarrà in carica ancora qualche giorno e sarà poi sostituito da un nuovo prefetto di fiducia della cittadinanza milanese. Invece poi arriverà il prefetto di nomina governativa. È una resa totale che i giornali di sinistra presentano come una vittoria. L'8 dicembre si svolge a Roma il primo congresso nazionale della Resistenza. Più di 60.000 partigiani sfilano per le strade della capitale con le armi nascoste sotto i giubbotti, pronti a una prova di forza. C'è anche la Volante Rossa. A Genova alcuni partigiani si armano proprio grazie alla Volante Rossa, che gli porta un camion carico di armi. Il 12 dicembre la Volante Rossa decide di dare una lezione ad un fascista, l'ingegner Toffanello, iscritto al Partito Repubblicano Fascista e membro delle Brigate Nere. Fino al 26 aprile 1945 è stato vice direttore dello stabilimento Vittoria delle officine Falck ed è responsabile della deportazione in Germania di 60 operai della Breda e della Falck. Dopo la liberazione viene epurato. Gli uomini della Volante Rossa sequestrano l'ingegnere. A Milano fa molto freddo. Lo portano a Piazza Duomo, lo fanno spogliare e lo lasciano lì seminudo. Dal 4 al 10 gennaio 1948 si tiene a Milano il sesto congresso del Partito Comunista Italiano. La Volante Rossa svolge il servizio d'ordine per tutta la durata del congresso. Durante questo servizio, uno della Volante Rossa chiede a Togliatti un autografo, passandogli il tesserino rosso di riconoscimento in possesso dei membri della Volante. Ma Togliatti glielo restituisce dicendo: «Sulla tessera del partito sì, ma qui no». In febbraio, all'Università Statale, un gruppo di fascisti attacca gli studenti di sinistra che stanno occupando. Qualcuno chiama la Volante Rossa, che interviene subito sistemando le cose. Il 22 marzo, durante un comizio fascista a Milano, la Celere carica la folla, che lo contesta. Quelli della Volante si armano di tubi innocenti e caricano a loro volta da sopra i gradini del Duomo, dove i blindati non possono arrivare. I lavoratori si ricompattano a fianco degli uomini di Paggio e gli scontri proseguiranno per ore. Il 10 aprile c'è il comizio del professor Cruciani del Movimento Sociale Italiano, che è già scampato a due attentati dalla Volante Rossa, che questa volta però non è sola, perché ci sono migliaia di lavoratori che prendono d'assalto la tribuna da cui parla Cruciani. Le forze dell'ordine intervengono a difesa dei fascisti, ma devono vedersela con la Volante Rossa. Il 18 e il 19 aprile 1948 si tengono le elezioni politiche. Il Fronte Popolare è sconfitto e la Democrazia Cristiana ottiene la maggioranza relativa. Il 25 aprile 1948 gli uomini di Paggio sono tutti insieme alla Casa del Popolo di Lambrate, dove arriva la notizia che a Piazzale Loreto le forze dell'ordine hanno sbarrato l'accesso alla piazza caricando i dimostranti e dando inizio a una serie di feroci scontri che si protrarranno per tutta la giornata. Arriva allora la Volante Rossa. Dal gruppo dei dimostranti, o forse da una finestra, vengono sparati alcuni colpi di pistola che uccidono un carabiniere. Alla fine la folla riesce a raggiungere l'accesso alla piazza. Tra i 20 cittadini feriti alla fine della giornata ci sono anche Giovanni Pesce, comandante dei GAP a Milano, colpito alla testa, e un ex partigiano che da poco tempo frequenta la Volante Rossa. Il 9 luglio l'industriale Carlo Bezzi, uno dei più odiati industriali di Milano, esce da una riunione coi dirigenti svoltasi nella sede del Palazzo di Giustizia. All'uscita trova ad attenderlo un gruppo di operai che lo travolge con una raffica di pugni e calci e viene ricoverato in ospedale con alcune costole fratturate. Gli operai che hanno occupato la sua fabbrica lo accusano dei continui licenziamenti e di far sistematicamente ricorso alla polizia per reprimere le proteste. La sera del giorno successivo la polizia sgombera la Bezzi, malmenando gli occupanti. La volante rossa, probabilmente su sollecitazione di alcuni lavoratori, decide di colpirlo. Vengono tirate due bombe a mano, ma una non esplode e l'altra non colpisce nessuno a causa della fitta nebbia. Sentiamo ora la testimonianza di uno dei membri della volante rossa, Paolo Finardi. Sono entrato dentro nella volante rossa. Una parte erano disoccupati, gli altri erano operai che lavoravano nelle fabbriche. La polizia aveva occupato la fabbrica Bezzi, no? E siamo andati lì, abbiamo sbattuto fuori la polizia, abbiamo rimesso dentro la commissione interna con gli operai alla Bezzi. E facevamo questi lavori, no? Pensavamo da soli. Noi avvicinavamo da solo, però, per in difesa del partito. Però il partito questo qui non sapeva mica. Voi avete rifiutato di consegnare le armi? No, noi abbiamo consegnato le armi con le vecchie. Esatto, quelle nuove le avete tenute. Quelle nuove le abbiamo tenute. Siccome non si sapeva che cosa sarebbe successo, tutti tennero delle armi, insomma. Le armi nuove, perché le avete tenute? Perché i fascisti a Milano alzavano la testa di nuovo. Noi abbiamo proseguito la nostra strada, non siamo stati lì a vedere. Abbiamo visto che le elezioni sono state perse, noi pensavamo subito che Scelba avrebbe liberato i fascisti e avrebbe cacciato fuori dalla polizia i partigiani. Questo qui era chiaro. Eravamo pronti a far di tutto per arrivare a un'Italia migliore, un cambiamento sociale in Italia e politico anche, no? Questa idea è fallita dopo il 48, dopo le elezioni che ha vinto la Democrazia Cristiana. E poi dopo noi facevamo quello che dovevamo. Quello che ha comandato il plotone di esecuzione all'uccisione di Eugenio Curiel è rientrato. Allora l'abbiamo perdonato alcuni giorni, allora lui gli ha tirato tutta la raffica, tutti sopra la testa, lui ci ha passato, allora io ci ho tirato un colpo. La volante rossa in questo periodo si impegna soprattutto a buttare fuori la polizia che occupava le fabbriche dopo averle sgomberate ed impedisce anche il crumiraggio. Il 14 luglio 1948 Antonio Pallante, un fanatico anticomunista, corrispondente dell'Uomo Qualunque, presidente del blocco liberale e appassionato lettore delle opere di Mussolini e di Hitler, spara a Palmiro Togliatti 4 colpi di pistola. 2 giorni prima dell'attentato Pallante si è incontrato con un cognato del gerarca fascista Rodolfo Graziani. Viene proclamato lo sciopero generale, le fabbriche vengono presidiate, ci sono dappertutto cortei molto partecipati in molte città. Interi quartieri finiscono sotto il controllo militare degli insorti. A Milano la Motta, la Breda, la Bezzi vengono occupate di nuovo. I rivoltosi sono armati con fucili, mitra e bombe a mano. Agli angoli di ogni muro di cinta delle fabbriche vengono piazzate mitragliatrici. La volante rossa si ritrova alla Casa del Popolo di Lambrate e poi si dirige verso gli stabilimenti industriali, dando disposizione per lo sciopero a tempo indeterminato. Un membro della volante rossa racconta: «Pensavamo di essere vicini allo sconvolgimento politico della società e ci siamo organizzati di conseguenza. Abbiamo buttato fuori la polizia dalla Bezzi, l'avevamo già fatto altre volte». ma questa volta li abbiamo totalmente disarmati e le armi sono sparite. La Volante Rossa trasferisce il suo quartier generale agli Innocenti. Sono armati fino ai denti e non sono i soli. La mattina dopo, una compagnia corazzata di carabinieri è partita da Pavia e punta su Milano per sgomberare gli stabilimenti occupati. La Volante Rossa parte alla testa di un folto gruppo di operai. I carabinieri arrivano con le autoblindo e iniziano a lanciare i lacrimogeni, ma la Volante e gli operai raccolgono i lacrimogeni e li gettano dentro le torrette aperte dei blindati. I carabinieri, che non hanno la maschera antigas, sono costretti a uscire e abbandonare i mezzi, che vengono conquistati dai rivoltosi. La notte del 15 luglio la Volante Rossa è agli Innocenti, assieme a 200 operai, racconta un testimone. Ci siamo riuniti per decidere cosa dovevamo fare, se attendere o iniziare immediatamente il movimento di trasformazione della lotta in lotta armata. A Milano furono occupati tutti gli edifici pubblici, il comune, la provincia, la prefettura e la radio. Il 16 luglio la Volante Rossa decide di attaccare la più importante caserma dei carabinieri della città, quella dove sono tutti mezzi corazzati e per questo portano anche i Panzerfaust. Mentre si stanno muovendo verso la caserma, un'automobile della Federazione Comunista raggiunge l'autocarro su cui viaggiano. I dirigenti a bordo dell'automobile dicono agli uomini di Paggio che non è il momento, gli americani interverrebbero e si finirebbe come in Grecia. Lo sciopero è finito, bisogna rientrare. La Volante Rossa obbedisce a malincuore. Poi una telefonata dell'ambasciata sovietica proibisce agli italiani ogni tentativo rivoluzionario. Lo sciopero termina senza aver raggiunto nessun obiettivo. Poi, tra il luglio 1948 e la prima metà del 1950, si registrano 62 lavoratori uccisi, 3.216 feriti, 92.169 arrestati. Alla fine del 1948 e ancor più all'inizio del 1949, centinaia di partigiani vengono arrestati e incriminati, questo per azioni compiute durante la Resistenza. Il 26 settembre si svolge a Roma una manifestazione nazionale per il rientro alla vita politica di Togliatti. La Volante sfila alla testa della delegazione milanese. A ottobre, 5 operai della FALC vengono arrestati, poi altri 4 operai vengono licenziati per una spiata del capo delle guardie. Sono i primi licenziamenti esplicitamente motivati da ragioni politico-disciplinari dopo la liberazione. Il 13 ottobre viene indetto uno sciopero di solidarietà di 2 ore in tutte le fabbriche di Milano, ma alla Breda un gruppo di impiegati e dirigenti si rifiuta di sospendere il lavoro. Pochi minuti dopo, una squadra della Volante Rossa, assieme ad alcuni operai della fabbrica, entra negli uffici e spazza via i crumiri. Ed ora ascoltiamoci Oltre il Ponte, dei Modena City Ramblers. Oh ragazza dalle guance di pesca, oh ragazza dalle guance d'aurora, io spero che a narrarti riesca la mia vita all'età che tu hai ora. Coprifuoco la truppa tedesca, la città dominava, siam pronti, chi non vuole chinare la testa con noi prenda la strada dei monti. Silenziosa sugli aghi di pino, su spinosi ricci di castagne, una squadra nel buio mattino discendeva l'oscura montagna. La speranza era nostra compagna, assaltar caposaldi nemici, conquistandoci l'armi in battaglia, scalzi e laci eppure felici. Avevamo 20 anni oltre il ponte, oltre il ponte che in mano nemica, credevamo siamo santi, l'eroismo non è sovraumano, corri a passi, dai balza avanti, ogni passo che fai non è vano. Credevamo a portata di mano, dietro il tronco il cespuglio e il canneto, l'avvenire di un mondo più umano è più giusto, più libero e lieto. Oramai tutti a famiglia hanno figli che non sanno la storia di ieri. Son solo e passeggio tra i tigli con te cara che allora non c'eri, e vorrei che quei nostri pensieri, quelle nostre speranze di allora, mi vivessero in quel che tu speri, o ragazzo color. Per il momento vengono abbandonate dalla Volante Rossa le azioni armate contro i fascisti. Ma Paggio non può perdonare Ghisalberti l'assassinio di Eugenio Curiel, che si vanta di aver ucciso 3 partigiani quando era con la Legione Ettore Muti, di avere preso parte a rastrellamenti, di avere incendiato case e di aver seviziato donne. E decide che deve essere giustiziato, e così gli uomini della Volante Rossa lo uccidono il 27 gennaio 1949. Lo stesso giorno viene deciso di uccidere un altro fascista, Leonardo Massazza, implicato in una strage che tocca da vicino la Volante Rossa, quella del campo Giuriati, dove il 2 febbraio del 1945 vengono uccisi 5 partigiani. Massazza ha avuto anche incarichi nel partito fascista in Albania e in Grecia. Per fare queste operazioni gli uomini della Volante Rossa si servono questa volta di un taxi come mezzo di trasporto. Dopo queste azioni la polizia fa irruzione alla Casa del Popolo di Lambrate, devastando tutto. Nella perquisizione vengono trovate 2 rivoltelle. La polizia opera 2 arresti e 15 fermi. Il 12 febbraio Marco Trincheri, uno dei partecipanti all'esecuzione di Massazza, viene arrestato e parla. Lo hanno arrestato all'1. Alle 5 del pomeriggio sul giornale c'erano già i nomi e come è stata pianificata ed effettuata l'azione. Il 24 febbraio la polizia opera una seconda ondata di arresti, tra cui 15 militanti della Volante Rossa. Di fronte alle accuse, il PC e l'AMPI negano d'aver mai saputo dell'esistenza della Volante Rossa. A marzo i membri della formazione di Lambrate iniziano ad espatriare con l'aiuto del PC. Burato per primo passa il Brennero e arriva a Praga. Poi diversi altri trovano rifugio in Cecoslovacchia, compreso il comandante Paggio. La direzione del PC manda Raffaele De Grada a commissariare la sezione di Lambrate. Gli scampati all'arresto si allineano alle nuove direttive del partito di liquidazione della Volante Rossa. Agli uomini di Paggio vengono contestati una lunga serie di reati, dall'assalto al bar di via Pacini, al sequestro Toffanello, agli omicidi di Ghisalberti e Massazza, alle occupazioni della Motta e della Bezzi, al pestaggio del Crumiro alla Breda e molti altri, fino all'omicidio di Gatti. Le domande estremamente precise e dettagliate e l'impressionante raccolta di fotografie sulla Volante Rossa confermano la sensazione che le forze dell'ordine li sorvegliassero da tempo. Ai componenti della Volante viene anche contestato il reato di associazione a delinquere. Nel novembre del 1949 i detenuti della Volante Rossa iniziano uno sciopero della fame che durerà 5 giorni. Con una prima sentenza del 7 aprile 1950, 18 componenti della Volante Rossa escono dal carcere e nell'agosto 1950 la sede del processo viene spostata da Milano a Verona, dove a febbraio del 1951 Paggio, Burato, Finardi e Trincheri vengono condannati all'ergastolo, Biadigo a 30 anni. E per gli altri imputati le pene oscillano tra i 9 anni e 4 mesi di Marchesi e Lo Savio e i 18 mesi di Mondani e Magni. A Venezia, a novembre del 1953, nel processo di secondo grado, le condanne saranno soltanto parzialmente ridotte ad alcuni. Burato poi si trasferirà in Unione Sovietica, divenendo ingegnere. Finardi diverrà dirigente dell'Organizzazione della Gioventù Comunista Mondiale. Paggio, a Praga, lavorerà nella redazione di Oggi in Italia, la trasmissione di Radio Praga a cura del PC, e in seguito alla rivista Problemi della Pace e del Socialismo. Sarà poi proprio Paggio a leggere da una radio clandestina il messaggio di Svoboda, presidente della Cecoslovacchia, contro l'intervento russo del 1968. Nel 1978 il presidente Pertini grazierà Paggio, Burato e Finardi. Il comandante Paggio è morto a Praga il 15 novembre del 2009. Penso che se la Volante Rossa e le molte altre formazioni simili in Italia non fossero esistite, fin dal 1948 l'Italia avrebbe avuto un governo di democristiani e fascisti con l'appoggio degli americani. Ci riproveranno nel 1960 con il governo Tambroni, ma gli andrà male, perché verranno sconfitti dalle enormi manifestazioni di piazza a carattere insurrezionale, che costarono la vita a 11 compagni. Oggi purtroppo ci ritroviamo con un governo formato dagli eredi del movimento sociale italiano e da partiti che assomigliano molto a quello che era a quel tempo l'uomo qualunque. Per chi volesse approfondire ci sono diversi libri, come ad esempio di Cesare Bermani, La Volante Rossa, storia e mito di un gruppo di bravi ragazzi. Di Francesco Trento, La guerra non era finita, i partigiani della Volante Rossa. Di Carlo Guerriero e Fausto Rondinelli, La Volante Rossa. Di Massimo Recchioni, Ultimi fuochi di resistenza, storia di un combattente della Volante Rossa. E sempre di Massimo Recchioni, Il tenente Alvaro, La Volante Rossa e i rifugiati politici italiani in Cecoslovacchia. Si conclude così anche questa seconda e ultima puntata sulla Volante Rossa.